Il Muro del Campo è uscito il 19 ottobre con l'ultimo album, che si chiama L'amore mio non muore. E facciamo quattro Giusto. chiacchiere con Alessandro per farci raccontare un po' di questo album e delle prossime date per presentare appunto questo lavoro, che sono anche qua vicino. Infatti, tra un pochino, a fine intervista, ti chiederò dove suonerete prossimamente. Bene, assolutamente. Inizierei chiedendoti un'altra cosa. Questo è il quarto album della vostra carriera, è uscito appunto il 19 ottobre, e rispetto agli album precedenti ha qualche novità. Una fra tutte è il fatto che due pezzi, Stoica e Il tempo perso, sono cantati in italiano e non in Sì, in dialetto. Ok, come mai avete fatto questa scelta? realtà sono stati proprio i brani a dettare questa cosa perché li abbiamo scritti così, però in quanto tematiche, in quanto atmosfere erano molto vicini al Muro del Canto, quindi ci siamo detti perché no, proviamo e alla fine tutto sommato ci sembra un esperimento forse riuscito perché poi il nostro romano non è un romano pesante, non è un romano che non si capisce, quindi accostarci anche l'italiano ogni tanto risulta secondo me coerente. Ok, scusate, tanto cambio voce, sono diventato Mauro. Sì, Allora, in 12 tracce presentate quasi una dichiarazione d'amore. L'amore mio non muore, appunto, è dedicato a chi resiste in qualche modo alla modernità, alla velocità, e lo dichiarate anche nel singolo che è anticipato a luglio scorso l'uscita dell'album. E La vita è una. Che cosa volete raccontare con questo pezzo e quali sono i messaggi dell'album, diciamo, ecco. beh, La vita 1 è un brano che è, diciamo, in linea con tutto il resto del disco, come dicevi giustamente tu, perché tratta il tema del passare del tempo, che forse anche per questioni anagrafiche, per tempo che passa, diventa particolarmente importante nelle nostre vite. E ogni brano ha uno strumento per raccontare il tempo, nello specifico La vita 1 è il ricordo dell'infanzia, un ricordo talmente forte che come quasi questa possa tornare, quindi torneremo ancora bambini, diciamo pensando a un ciclo della vita che appunto è ciclico, che poi quando magari si invecchia si diventa ancora più vicini a quelli che invece erano degli atteggiamenti e dei comportamenti infantili. E quindi La vita è una tratta il tempo così come lo trattano molti altri brani del disco. Per creare questo quarto album avete avuto anche, tra l'altro, collaborazioni e amici che hanno partecipato, tra cui una bellissima voce femminile e un violino. Ecco, parlateci un Assolutamente. po' di questo. Il violino è il nostro collaboratore storico Andrea Ruggero ed è una persona che ci segue già da diversi dischi precedenti ed è un musicista veramente valido, di estrazione classica, che però dà il meglio di sé nel rock e ha collaborato con tantissimi, oltre che con noi. E invece alla voce ci siamo avvalsi della bellissima voce di Lavinia Mancusi che oltre a essere una cantante, una cantautrice, una violinista molto brava, una polistrumentista, quindi ci faceva piacere avere questo sguardo al femminile, anche perché il brano è scritto al femminile, e quindi la prima persona è la prima persona femminile, quindi era perfetto per lei. Questo album è un album in cui portate avanti diciamo, un modo di raccontare la vita tutto particolare, tutto vostro, che secondo me si collega anche un po' a un modo di raccontare l'Italia particolare. Che cosa ci volete raccontare dell'Italia di oggi? Beh, Roma è un pretesto, si parla tantissimo di Roma, ma è solamente un pretesto perché poi quelle storie sono assolutamente trasportabili in tante altre città o paesi d'Italia. Quindi vogliamo raccontare un'Italia che non vive di privilegi, un'Italia che lavora, un'Italia che integra, un'Italia che accoglie e che magari anche se non è attualmente rappresentata politicamente con la maggioranza, però c'è, esiste, resiste e diciamo porta avanti dei sani principi di uguaglianza e quindi noi vogliamo raccontare quell'Italia lì a cui ci siamo, di cui noi ci sentiamo dei rappresentanti. In un qualche modo poi anche a livello televisivo, diciamo, sia con la partecipazione del vostro brano assieme a Piotta nella serie TV di Suburra e sia nella fine di Gom, nel film Gom a casa loro, siete entrati un po' a far parte di un immaginario musicale molto forte riguardo appunto a questo argomento, no? All'Italia di oggi, a Sì, come. diciamo la caratteristica è che noi siamo un gruppo popolare, quindi che dovrebbe trarre spunto dalle tradizioni e in realtà noi le tradizioni cerchiamo di crearne di nuove oggi e di attualizzare quelle di ieri, quindi parliamo molto del contemporaneo, però con l'escamotage del popolare, dell'antico e del tradizionale. Molte delle nostre canzoni, soprattutto quelle cantate, non hanno riferimenti temporali, quindi sono difficilmente collocabili in un'epoca. E quello è un gioco che ci piace fare perché le canzoni in qualche modo ci piace che siano in qualche modo universali. Ma tra i featuring che avete fatto, ne avete fatti diversi nel tempo, nella vostra carriera, anche perché suonate dal 2010, quindi insomma da un po' di tempo. Qual è stato quello che vi ha emozionato di più, quello che è stato più bello finora? Beh, probabilmente quello con Assalti Frontali per il lago che combatte, perché diciamo è un po' una favola cittadina di questo lago che spunta in mezzo al traffico della città e di come poi questa canzone è scritta per gioco. Tra l'altro Militantà, cantante di Assalti Frontali, lo racconta bene nel suo ultimo libro che si chiama Conquista, il tuo quartiere conquisterà il mondo, racconta proprio la genesi di questo brano, di come l'incontro tra di noi è, diciamo, ha fatto nascere questa canzone che in poco tempo è diventata un caso e diciamo, abbiamo convogliato migliaia di persone attorno a questo lago naturale e l'emozione dei primi concerti, del fatto che ci eravamo resi conto che diciamo, era nato qualcosa di importante e di bello. Tuttora ogni anno ci ritroviamo al lago a cantare quella canzone ed è sempre un'emozione molto forte. Beh, bellissimo. A proposito di ritrovarsi a cantare le vostre canzoni, allora, tra pochi giorni sarete in Emilia con una data di presentazione. Poi dove possiamo venire a sentirvi? Quali date avete in programma? Allora, noi abbiamo fatto le prime due date del tour, le prime due tappe sono state piemontesi, la terza invece è a Modena, all'Off, ed è sabato 24, quindi ci siamo quasi. Poi il 29, sempre di novembre, saremo a Milano, il 30 a Padova, e poi faremo a seguire Brescia, e l'ultima data l'8 dicembre a Imperia per questa prima tornata. Poi il 2019 ci aspettano tante altre tappe. Allora, noi intanto promuoviamo la data di sabato 24 all'Off, che è quella più vicina a noi. Ti ringraziamo infinitamente per l'intervista. Io ringrazio voi e saluto tutti gli ascoltatori. Grazie mille.